tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Ed eccoci pronti per le nostre due ore di diretta del sabato pomeriggio con me, con Marta Cagnola. Siamo tornati in studio, la scorsa settimana eravamo in mezzo ai gioielli, all'oro, alle pietre preziose di Vicenza Oro, ma siamo molto contenti anche di essere tornati a Milano nei nostri studi di Radio 24 per la nostra consueta diretta. Come al solito due ore, RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, la prima ora con un sacco di spettacoli, parleremo tanto di musica ma anche di serie TV, faremo anche un po' di storia, una bella lezione di storia e poi la seconda ora è quella con il nostro RadioTube Social Network. Tutta l'attualità della rete e dalla rete per una settimana, ci sono molte tendenze, molti fatti di costume che sono entrati nelle cronache proprio grazie ai video più condivisi della settimana nella rete. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp. I miei account Twitter sono @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Io direi di cominciare con un po' di musica. Avevo l'imbarazzo della scelta perché insomma abbiamo deciso di parlare subito di una grandissima personalità della musica italiana. Io ho scelto a mio gusto, ho scelto questa. Pierdo suonan coppe e giornalette, e mamma te minaccia, e padre te s'arraggia. Te fanno girare a capo sti fumette, guardando dentro specchio, puoi fare il coreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in uno studio più. Oh, torero, te si piazzato in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacca in da sacca va a ballare, mescolando bolerio, ciacciacchi, buon brugliato, torero. Allora, me le sono ascoltate tutte stamattina per scegliere, alla fine ho scelto Torero, ma il repertorio di Renato Carosone è immenso. Renato Carosone era nato il 3 gennaio 1920 a Napoli, quindi bisogna festeggiare questo centenario. E come festeggiare il centenario se non rileggendosi la sua autobiografia, l'autobiografia dell'americano di Napoli. Il titolo è ora Carosone 100, perché è stata rivista in una nuova versione con una prefazione che mi incuriosisce molto, ma chiediamo tutto al coautore di quella biografia di Renato Carosone, a Federico Vacalebre. Ciao Federico. Ciao Marta, ciao a tutti. Ovviamente firma del Mattino e il più grande conoscitore di musica napoletana che io conosca. Federico, c'hai una responsabilità. Federico, come andò la storia di questa autobiografia? Com'è nata? Ma è nata a un premio Tenco, è nata a un premio Tenco di quelli eroici in un dopo Tenco. Quell'anno c'era Renato, che io frequentavo da un po' di tempo professionalmente, c'era Gabriella Ferri e c'era un grande bluesman che si chiama Lowell Fulton. Giocarono a fare musica fino alla fine e poi niente, ma si può raccontare questa storia, non si può raccontare questa storia, che è una storia di un italiano come quella di Alberto Sordi, è una storia di un grande musicista, ma anche di un uomo che è sceso, ha lasciato la sua poltrona, che era il suo successo, prima che fosse troppo tardi, che è così attuale adesso perché ha saputo dire basta, ha saputo smettere. La canzone che tu hai scelto è stata tradotta in almeno 12 lingue, conta centinaia di versioni, è arrivata al 38esimo posto della classifica in America. In Italia fu in testa alla classifica per 21 settimane, ma stiamo parlando della fine degli anni 50. Però canzoni estremamente moderne come ritmi, estremamente moderne anche come testi, come arrangiamenti, i musicisti, la sua squadra era vincentissima. Perché così contemporaneo Renato Carosone? Perché Renato è l'esempio più bello, io credo in assoluto, anche se abbiamo avuto dei nomi ben più famosi nel teatro, nel cinema, della nobiltà dell'arte napoletana, che era nobile perché popolare. Renato viene da una famiglia umile ma onesta, avrebbe detto molto grande come Troisi, fa una rapidissima gavetta nel teatro popolare, nella canzone popolare, e si ritrova giovanissimo in Etiopia. Sulle punte delle dita un po' di jazz, inizia a scoprire il grande repertorio internazionale, Cole Porter, Gershwin, la canzone francese, i ritmi latinoamericani. Quando nel dopoguerra si trova a Napoli e nessuno vuole più la canzone napoletana ipermelodica, veteromelodica, lui ci aggiunge ritmo e ironia. Incontra strada facendo una squadra straordinaria, un dream team diremmo adesso, un paroliere come Misa, che riesce a scrivere commedie dell'arte, che riesce a dipingere personaggi in una canzone, un altro paroliere come Bonagura, che invece gli dà il profumo melodico di canzoni come Marzella o T'aspetta e Nove, le più romantiche, uno strepitoso fantasista dei tamburi come Giorgia Di Giacomo, il padre di tutti i grandi percussionisti napoletani, e l'olandese volante Pieter van Wood. Con loro firma canzoni, incide canzoni, canta canzoni che hanno insieme la capacità di dire cose ma di divertire. Nel dopoguerra il ritmo serve per rialzarsi, però serve anche sfottersi un poco. Duo fa l'americano, pigliate una pastiglia, Torero, Sarracino sono piccole commedie dell'arte, con dei ritmi straordinari e soprattutto degli arrangiamenti straordinari. Dice Stefano Bollani, che ha suonato il suo amato Carosone per la prima volta la notte del Capodanno scorso, dice: io sugli arrangiamenti del trio, del sestetto, ho paura a mettere le mani, sono talmente perfetti, che ci fai? È vero. Ho citato la prefazione di questa nuova edizione di Carosone 100, che è stata pubblicata da Albatros, perché la prefazione non è a caso l'hai chiesta a John Turturro. Sì, nel libro, nella prima versione del libro era di Pino Daniele. E nel ristampare questo libro ho voluto che anche un altro amico potesse segnare questo passaggio, marcando ancora ulteriormente l'internazionalità di Renato. John ha lavorato su Carosone durante le riprese di Passione, ed è arrivata la sua personalissima convinzione che sia stato il padre di tutti i rapper. Non sarà molto, come dico, dire ortodossa, sicuramente non c'entra niente con Junior Calli, però ha rintracciato nelle filastrocche che Renato poi ereditava dalla tradizione popolare di tutto il Mezzogiorno d'Italia, un'attenzione al ritmo che è la costante del canzoniere di Carosone. E per cui è uno sguardo così vicino, così lontano, sicuramente interessante per iniziare questo anno che in qualche modo dedicheremo interamente a Renato. Sta uscendo il libro il 20 marzo all'Augustaio di Napoli, debutta il musical tratto da questo libro con Andrea Sannino nei panni di Carosone, in cui rincontreremo Van Wood, Gigi Di Giacomo, ma anche Fred Buscaglione a teatro. A maggio tornerà il premio Carosone, Napoli ospiterà una grande mostra di quadri di Renato, per una sua arte diciamo più nascosta, più segreta, e sia pure in maniera carbonare, è arrivato nelle edicole con una rivista un disco che contiene un inedito delizioso di Renato, si chiama Signora, è un brano che lui scrisse nel 1992, è un provino ispirato dalla visione di Bessie Springsteen, A Signora e A Signora Cara Marta e A Signora Erimpetto, e si offre allo sguardo del cantante, si fa vedere, si spoglia e soprattutto fa il ritornello a cavallo e scavalla, a cavallo e scavalla, a cavallo e scavalla. Abbiamo capito l'ispirazione. Cosa deliziosa. Che meraviglia. Senti, nonna Pina ci ha scritto: che emozione riascoltare Carosone. Ragazzi, è sempre bellissima, proprio una cosa che a me fa veramente piacere. Ho fatto fatica a scegliere, caro Federico. Spero di avere scelto bene. Allora, devo ringraziare tantissimo Federico Vacalebre, firma del Mattino, ma soprattutto coautore dell'autobiografia dell'americano di Napoli, Carosone 100, che è in libreria per i tipi di Albatros. Grazie Federico per essere stato con noi, a presto. Grazie a te, ciao Marta, ciao a tutti. Allora, lasciamo Napoli, andiamo a sentire come sta andando su Strade Autostrade e poi incontriamo un cantautore di oggi amatissimo. Radio Tube Social Village. Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se è sesso, se è amore? Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore? E che serve una canzone per parlare d'amore? Ma non confondere l'amore e l'innamoramento, che oramai non è più tempo. Io sono felicissimo, ho aspettato fino adesso per averlo in radio accanto a me. È un cantautore di grandissima classe, ma è anche il numero uno delle classifiche, ma ha anche fatto un meraviglioso sold out al Forum di Milano. Allora, cantautorato, raffinato, ma finalmente un enorme successo di pubblico da un po' di tempo. Benvenuto a Bruno Risas. Ben trovata. Che meraviglia rivederti. Grazie, anche per me. Mi piace anche che proprio sorridi veramente, non è la meraviglia di solito formale, proprio si vede che c'è un sorriso gioioso, che c'è una gioia genuina. Allora, c'è una gioia, ma mi hai anche fatto un po' piangere quando col primo singolo ci hai strappato il cuore. Ma noi abbiamo questa alternanza, la lacrima è solo funzionale alla gioia. Tra l'altro quel singolo, come ho scritto in più di un'occasione, ha creato una valle di lacrime, per cui sto pensando di tirar fuori una linea brandizzata di fazzoletti: Piangi con Brunori, si chiameranno. In maniera tale che così scrivo le canzoni e al contempo ci lucro, come d'altronde è nella mia natura. Ma d'altronde non saresti Sas altrimenti, esatto. Perché qua c'è sotto un'impresa. Esatto, una grande impresa. Io mi ricordo che la prima volta che ti intervistai per Il Sole, non per la radio, la puntammo proprio sul fatto che tu eri un cantautore imprenditore. Certo, eravamo nel contesto giusto. Era quello il marchio dell'azienda di famiglia. Però dopo tutti questi anni sei Bruno Risas, cioè ormai adesso, sei tu. In alcuni casi spesso sono Darione, questo per far capire che ormai, esatto, sono una sorta di cuginone grande e grosso. E anche ormai un po'... il tuo nome è... Sì, e mi chiamano Darione e mi abbracciano in questi incontri che sto facendo in questi giorni. Anche qui a Radio 24. Mi hanno subito abbracciato, mi hanno detto che hanno abbracciato nello stesso modo me e Lino Banfi, quindi probabilmente hanno questo fascino per la... per le persone di un certo livello e spessore. Ecco, anche perché siamo ancora dei ragazzini. È una certa età. No, non dirlo, guai, non è vero. Allora, quando hai reso noto il titolo e l'artwork dell'album, questo chip con un petti rosso, piccolo, che cinguetta, insomma, hai subito dato un'impronta di delicatezza, minimalismo, levità, che è proprio tipica dei giorni nostri, è proprio quello che... Volevo assecondare i toni di oggi che sono tutti garbati e gentili, esatto, tutti aperti al dibattito, al dialogo. Ecco, mi sembra proprio che siamo in una fase in cui il dialogo è assolutamente centrale in ogni aspetto della nostra vita privata e pubblica, e quindi ho detto è ora di celebrare questo garbo e questa gentilezza chissà con un chip. Mi sembra che tutto il mondo intorno stia solo cinguettando. Ecco, l'abbiamo. No, beh, allora il mondo cinguetta in un altro modo, certo, nel senso di social. Però davvero tu ti sei proprio chiamato fuori da un mondo che urla, da un mondo. Riportandoci ancora una volta all'importanza delle parole, dell'esprimere dei concetti con la musica, ma anche con le parole giuste. Ma in realtà, guarda, devo dire una cosa, questo disco è sicuramente un disco con una ricerca delle parole, ma anche con una ricerca di un certo tono, cioè il chip non è solamente il titolo, ma è anche una ricerca da parte mia di cantare alcune cose in un certo modo, quindi non solo del cosa ma anche del come, e soprattutto mi piaceva l'idea che, al di là dell'ironia che facevamo prima, comunque c'è tutta un'umanità spesso silente, spesso non rappresentata, che è un'umanità garbata e gentile che volevo in qualche modo cantare e rappresentare, anche oltre forse la mia attitudine, che tendenzialmente è un po' più, no, io tendo a reagire in maniera impulsiva anche per la mia natura calabra, però ho deciso, proprio tra le mie premesse che ho scritto in un lunghissimo, tu ce l'hai adesso lì sul tablet, saranno 830 pagine di cartella stampa in cui ho dato tutte le mie premesse, così tante che non potevo sbagliarmi, semmai perdermi, e in quelle premesse c'era proprio l'idea di agire e non di reagire, cioè di rispondere a un tono, a un certo tipo di tono che appunto esasperato, comunque a voce alta, con invece una sorta di canto che ho definito così, per dare una definizione, che dal disincanto ho ritrovato l'incanto tramite il canto, cioè cercando comunque di parlare di alcune cose per poter trovare la chiave, secondo me. La cosa che mi sono detto in Al di là dell'amore, che questa canzone con cui è partito l'album, era proprio come se Al di là dell'amore mi traghettasse dall'album precedente a questo qui, in una strofa molto amara, molto amareggiata, ma con un ritornello in cui mi autoinvitavo a non urlare, a raccontare il mondo con parole nuove. Penso che poi questo sia il risultato. Devo dire che quel pezzo, già dal primo giorno che è arrivato alla radio, è sembrato a tutti un pezzo di quelli di una volta, del cantautore. Qualcuno ha urlato il nuovo Battisti. Hai reso moderna una cosa estremamente tradizionale e naturale nostra. Ma guarda, questo era il tentativo in questo disco, è proprio questo, quindi se lo sottolinei mi fa piacere, perché io sempre non ho mai negato, e sarebbe stato sciocco, il fatto che comunque la mia non è certo una proposta che tende a, diciamo, ad innovare, no? Nel senso della sperimentazione, comunque sto nel solco di un certo tipo di canzone che è chiamata canzone d'autore, come la vogliamo chiamare, e il tentativo però via via che vado avanti con i dischi è proprio quello di prendere quella formula e cercare, no, di vestirla con un vestito adatto ai giorni nostri. Amore, l'abbiamo detto, però ci sono tante riflessioni senza andarsi a complicare la vita, senza filosofeggiare, però anche sull'essere, sulla spiritualità. Sì. Ho avuto un paio di anni molto intensi da questo punto di vista, un po' perché comunque, grazie al mestiere che faccio, sono spesso a contatto con una bella umanità, no? E quindi anche persone che mi invitano ad eventi o ad incontri, o semplicemente che mi intercettano perché quello che faccio magari li attrae, quindi risuona in loro qualcosa, e mi rendo conto che anche questa è la cosa bella, che e riesco, no, ad avere un, a volte dico c'è, cioè il pubblico è meglio di me, nel senso che comprende, mi dice cose di quello che faccio che poi io rubo perché sono malvagio e le ridico nelle interviste. E soprattutto ho incontrato tanta umanità comunque con un'attitudine alla vita che è un'attitudine anche spirituale, non necessariamente nel senso delle confessioni religiose classiche, ma comunque con uno sguardo, se vuoi, alla vita, all'esistenza, sacro, ok? E questa cosa qui mi ha influenzato molto, così come mi ha influenzato il vivere comunque in un piccolo borgo ai piedi, in realtà non siamo ai piedi perché fu pure abbastanza freddo. Quando vengono a trovarmi gli amici in Calabria dicono: ah, ma io ero venuto con la maglia a mezze maniche. Ma perché noi stranieri pensiamo che la Calabria sia tutto caldo e mare? Solo caldo e mare, invece con me rimangono molto delusi. Tra l'altro io sono un grande amante del freddo, quindi proprio non so perché le persone mi vengono a trovare e vanno sempre via prima del tempo, non so perché, abbandonano casa mia prima. Cioè, Dario, purtroppo sono sopraggiunto un impegno, devo andare via. Comunque, dicevo, stare lì, stare in un posto di montagna, poter fare un certo tipo di vita anche contemplativa, perché poi alla fine io sono così, ho quest'animo, sicuramente ha influito molto sulla stesura dell'album e anche sulla scelta di pensare che comunque l'unica cosa giusta da fare in questo momento, in un mondo che comunque è molto, molto attaccato alla materia, parlare, riportare al centro, secondo me, di una canzone, di un disco, anche questi aspetti, senza sentirsi per forza, come dicevi prima tu, no? Filosofi, oppure appartenenti ad una, no, come dire, dei reduci dei figli dei fiori. Allora mi sembrava una cosa molto giusta per quest'epoca, perché poi alla fine penso che questa cosa ci sia in tutti, ma un po' ce ne vergogniamo, no? Non lo diciamo più, non ne parliamo più, no? In una cena di una cosa spirituale, perché ci sembra una cosa di cui un po' vergognarsi, o che ci fa sentire un po' no, fuori dal mondo. C'è questo aspetto, però parallelamente anche il fatto che non ti prendi sul serio al 100%, cioè sempre con un filo di sguardo un po' ironico, forse fa parte della questa gestalt calabrese che tu che incarni. Che ho inventato proprio in maniera di sanapia. Mi piace anche inserire questi elementi, mescolare elementi di cultura nordica con... No, in realtà penso che anche l'ironia sia proprio una come dire, il risultato di un'attitudine di un certo tipo, di un'attitudine spirituale alla vita, perché comunque l'ironia ti permette di fare sul serio senza prenderti sul serio, come dice il buon maestro Zingoni, che penso abbia centrato quello che per me è la cosa fondamentale, che si può fare si può fare anche bene un percorso, anche con quello che sto facendo, insomma. Io comunque penso di aver fatto, benché tutti si lamentino, quelli che lavorano con me, che dici che non faccio niente, ma insomma, per i miei ritmi appunto calabri sto facendo sin troppo, però cerco sempre comunque di mantenere un distacco, cioè comunque a me alcune cose continuano a farmi ridere di me stesso, e finché riesco a ridere di me penso di essere sulla strada giusta. Allora, vabbè, è il numero uno dappertutto, io sono contentissima di averla avuta a Radio 24. Che bello questo titolo, Chip, grazie a Dario Brunori. Grazie. Brunori Sas, Brunori come volete. Darione, grazie. Grazie. Radio Tube Social Village. La gioia di aver avuto con noi Brunori Sas, o Brunori, o Dario, o Darione, come avete sentito, lo possiamo chiamare come vogliamo. Prima ancora siamo stati a Napoli e abbiamo parlato di Renato Carosone, perché appunto esce di nuovo la sua autobiografia per i 100 anni della nascita, per festeggiare i 100 anni di Renato Carosone, con davvero tante iniziative. Ne abbiamo parlato col coautore di questa autobiografia, una firma importantissima della musica napoletana, che è Federico Vacalebre. Adesso parliamo un po' di serie televisive. Io introdurrei il nostro ospite, che è napoletano pure lui, ma puro caso, con questa clip. Ogni volta che lasciamo libera di agire una strega, il maligno accresce il suo potere. Resta al riparo, bambina mia. Morta la strega! Le streghe smetteranno di esistere quando voi smetterete di bruciare. È lei la nipote della strega! Strega! Fermati, bestie! Allora, questa è La Luna Nera ed è una produzione italiana, italianissima, di Netflix. Netflix che peraltro ha annunciato proprio ieri sui social che aprirà una prima sede italiana e a Roma. Netflix sta già investendo da un po' in produzioni italiane. Questa settimana sono arrivati annunci di produzioni e coproduzioni italiane anche da parte di Amazon Prime Video. Quindi mi sembra un momento favorevole per gli investimenti nelle serie TV in Italia. Vorrei parlarne con un amico di RadioTube, con Gianmaria Tammaro. Ciao Gianmaria. Ciao Marta, ciao a tutti. Beh, per puro caso oggi siamo molto napoletani, però stavolta non c'entra Napoli, anche se qualche accento si sente anche nella luna nera. Devo chiederti intanto subito su questa luna nera se sai qualcosa, se hai visto qualcosa, perché il trailer ha un po' diviso sui social, su YouTube. Sì. Tu che ne pensi? Io non l'ho ancora vista. Allora, io ho visto qualcosa, ma sono ancora, diciamo così, non posso ancora parlarne liberamente. Certo, però allora, per quanto riguarda però almeno le reazioni, effettivamente, sì, non lo so, forse più accese perché è una produzione italiana? Non penso che sia stato per questo, non penso che sia per questo che le persone si sono divise. Penso piuttosto che sia perché Luna Nera è il primo fantasy italiano. Visto che stiamo vivendo da 2 anni quella che è la rinascita, mi permetterei di dire, del fantasy in televisione, dal Trono di Spade ai Dark Materials, su Sky, eccetera eccetera, Amazon stessa che sta lavorando al suo Signore degli Anelli e vari adattamenti di vari libri. Luna Nera ha questo primato di essere la prima, diciamo così, vera serie fantasy in Italia, quindi c'è questa attenzione da parte degli appassionati del genere, che chiaramente, dopo aver visto anche The Witcher sempre su Netflix, si aspetta qualcosa. Lo vedremo a fine mese, manca una settimanella, ecco poi ne parleremo liberamente, perché insomma ovviamente hai avuto la possibilità di vederlo in anteprima, ma non ci devi svelare le però sorprese. Se posso, la cosa interessante, sì, di questo progetto è al di là di tutto, insomma, sai, i soliti discorsi tu li conosci sicuramente meglio di me, però tutti i discorsi che si fanno di solito su produzioni che o sono tutte al maschile o tutte al femminile, qui c'è stata una scelta che chiaramente poi ha avvicinato creatrici, registe e sceneggiatrici, però è chiaro che questa è stata una scelta per un'idea, per una storia. Certo, poi da certo. Lì si è andato avanti. Questo è anche interessante, secondo me. Ed è un approccio, tra l'altro, abbastanza nuovo a un racconto fantasy, che non è un fantasy, diciamo così, leggero, è un fantasy con la magia, che, come dicevo prima, in Italia non è che si sia... Ancora, sì, ancora esplorato molto. Allora, investimenti internazionali, soprattutto americani, in Italia è una cosa che fa bene dal punto di vista industriale, senza alcun dubbio, perché vuol dire che la filiera italiana dell'audiovisivo può respirare ancora di più, anche se le cose stanno andando discretamente, con capitali che vengono da fuori. Sì, poi voglio dire, come dicevi anche tu prima, il fatto che ci sia questo interesse sia da parte di Netflix che da parte di Amazon ha innanzitutto scosso il mercato della serie. Chi già c'era ha dovuto aprire gli occhi, certo. Si è dovuto mettere sull'attente e capire un attimo come riorganizzarsi. Noi abbiamo la fortuna di avere una realtà come quella di Sky, che sta facendo anche da padrona Sky Italia in Europa, perché le produzioni migliori di Sky in Europa vengono dal nostro paese. Però è chiaro che Netflix e Amazon, con i loro investimenti, con la loro presenza, stanno decisamente aiutando, dando una nuova linfa, una nuova energia al mercato italiano. Netflix, per dire un po' di numeri, ha detto che in questo triennio, a partire da quest'anno, investirà 200 milioni di euro in Italia, che non sono assolutamente pochi. Amazon sembra chiaramente interessata a rimanere dopo gli annunci che ha fatto questa settimana a Roma, con più produzioni, non si è limitato alle serie TV ma anche all'intrattenimento puro, con un reale di cucina. Quindi è chiaro che c'è un interesse forte nel nostro paese, e allo stesso tempo l'avere una sede di Netflix a Roma fa suona più di un campanello, perché sì, Roma a parte sappiamo... tutti i, io immagino i curricula che arriveranno giustamente a Netflix, ci sarà proprio un assalto frontale alla sede di Netflix, però io ho questo sesto senso che mi dice che scegliere Roma con Cinecittà, con quei teatri, con quei capannoni, con quella possibilità anche di aprire uno studio di produzione, non solo un ufficio, è una cosa che probabilmente in un futuro Netflix potrebbe pensare. Ecco, ma torniamo a questa, dicevi, questa settimana Amazon Prime Video ha annunciato delle produzioni italiane, un evento Prime Video Presents. Allora, interessante, perché si sapeva che ci sarebbero stati degli annunci e questi annunci però riguardano appunto produzioni originali italiane. Sì, allora, per essere onesti, le due serie che hanno raccontato, più che annunciato, si conoscevano già. Una è un crime ambientato nella Milano degli anni Ottanta, prodotto da The Apartment Wildside, si chiama Bang Bang Baby, e racconta la storia di una ragazza di 15 anni che per avvicinarsi al suo padre ha a che fare con l'andrangheta nella Milano da bere. L'altra serie che sarà diretta da Michela Laiche, che insomma alla fine è uno dei registi che hanno annunciato, perché ce ne saranno anche altri. Michela Laiche, sì, che tra l'altro vi ha lavorato recentemente, sempre a proposito di serie, in Romulus di Sky, quindi si vede che anche i nostri registi si stanno spostando molto sul piccolo schermo, perché come diciamo ci sono molti investimenti. E l'altra serie, che è un primato importante perché non è solo la prima comedy originale di Amazon in Italia ma in Europa, è Vita da Carlo, che è una specie di Curb Your Enthusiasm con Carlo Verdone, scritta da Verdone stesso, con Nicola Voglianone e Menotti. Beh, interessante come esperimento, una versione un po' romanzata della vita di Carlo Verdone. Non so, sono molto curiosa, sono davvero molto curiosa. Sì, peraltro mi permetto, perché poi sembra, sai, che sia totalmente nuovo il format. Una cosa del genere l'aveva fatta anche Fabio Volo con il suo Untraditional, cioè provare a fare Fabio Volo nella sua serie, però qui, avendo anche un comico, mi permetto di dire, puro, nel senso che abbiamo conosciuto Verdone, abbiamo cominciato a conoscere Verdone nella storia del cinema, a proposito, come comico, secondo me qui i risvolti, poi vedendolo anche molto nella sua Roma, possono essere molto interessanti. Il fatto che Amazon abbia scelto lui, la sua storia e i nostri scrittori per la sua prima comedy originale in Europa è una cosa che fa ben sperare, insomma è una cosa molto bella. Hai detto cucina, chi è stato scelto? Carlo Cracco. È stato scelto Carlo Cracco, sì, l'hanno presentato come il papa della cucina, non sapevo che ci fosse anche un conclave per le cucine. Anche a me giunge nuovo, ma... Però è un format, diciamo così, un po' diverso dal solito, perché non si fermerà alle quattro mura di una cucina, ma ci sarà Cracco che viaggerà in giro per il mondo insieme, accompagnato da sei ospiti d'eccellenza, insomma attori e comici. E i primi due nomi che sono stati fatti sono quelli di Luciana Littizzetto e di Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli che ha detto: sarò io a insegnare qualcosa a Cracco. Staremo a sentire. Ultimo nome che è stato fatto, noi eravamo rimasti a Chiara Ferragni Unposted. Ci sarà un altro documentario su una celebrity? Sì, il titolo penso che dica tutto, il titolo è Ferro, sarà su Tiziano Ferro e arriverà questo giugno. Da quello che è stato anticipato pare che sarà un documentario che si concentrerà molto sulla sua vita privata, chiaramente senza esagerare, però racconterà di questa sua divisione tra Italia e Europa, dove e anche paesi latini, dove è molto famoso, e Los Angeles, dove può vivere una vita, diciamo così, normale con la sua famiglia. Quindi quello su cui si concentrerà il documentario, che arriva appunto a giugno, quindi a breve. magari farà un giretto in sala come ha fatto quello di Chiara Ferragni, sì. Potrebbe essere magari appunto prima proiettato nelle sale e poi sulla piattaforma, sì. Chissà. Potrebbe, sì, anche se, voglio dire, nel caso del documentario di Chiara Ferragni, lì c'era Venezia, quindi c'erano anche delle logiche, sai, no, per portarlo lì in mostra era chiaro che avrebbe avuto anche una distribuzione cinematografica. In questo caso un po' meno chiaro, secondo me potrebbe anche tranquillamente arrivare direttamente in piattaforma. Chissà, ma essendo l'uscita prevista a giugno, staremo anche qua a vedere. Sì. Interessantissime queste novità, non solo per i titoli, ma anche perché appunto si parla di investimenti non solo sulle serie, ma anche su progetti di carattere molto diverso, appunto annunciati questa settimana a Roma da Amazon Prime Video. Devo ringraziare tantissimo per essere stato con noi Gianmaria Tamaro. Gianmaria, presto. Grazie infinite Marta, a presto. E tanto noi Gianmaria lo disturbiamo sempre perché ha sempre un occhio molto molto molto molto attento sulle serie TV e sulle novità. Un attimo di pausa, traffico e poi saremo insieme ancora per parlare di musica. Radio Tube Social Village. Allora, ci ritroviamo insieme per l'ultimo blocco, l'ultima parte del nostro RadioTube Social Village. Abbiamo parlato all'inizio della puntata dei 100 anni di Renato Carosone, abbiamo incontrato insieme Bruno Risas. Piacerebbe postare sui social una delle foto che abbiamo fatto insieme. Non c'è una foto in cui abbiamo un'aria, non dico seria, ma sono, vabbè, abbiamo fatto delle facce improponibili. Adesso vediamo se riesco a postare qualcosa. E poi abbiamo telefonato al nostro amico Gianmaria Tamaro, perché come avete sentito è un periodo molto interessante per quanto riguarda le produzioni italiane sulle piattaforme internazionali. Le ultime produzioni sono state annunciate da Amazon Prime Video qualche giorno fa, ne abbiamo parlato. Se vi foste persi qualcosa, beh, c'è sempre il podcast, c'è l'app di Radio 24. Adesso però torniamo a parlare di musica e, come abbiamo fatto la scorsa settimana, entriamo in un mondo un po' particolare con un artista da conoscere, e gli ascoltatori più attenti sanno che è già stata nostra ospite, ma sono contenta di presentare il suo ultimo disco. Amica di RadioTube che torna sempre a trovarci quando ha qualcosa di nuovo, e io sono molto contenta perché è una bravissima artista che finalmente riesce ad avere anche dei riconoscimenti importanti, palchi importanti, vabbè, firme importanti con case discografiche importanti, anche quello ci sta. Bentornata Roberta Di Mario. Grazie. Ciao Roberta. Grazie a tutti voi, ciao. Allora, felice essere qui davvero tanto. Sono contenta di averti. Roberta, noi non ci vediamo da poco più di un anno, un anno e mezzo. E cos'è successo nel frattempo? Ti sei disarmata? Sei diventata disarmante? Allora, perché anche l'altra volta avevi inventato una parola che riuscisse ad essere un po' il riassunto del tuo stato d'animo. Questa sì. volta è Disarm, e questo è il titolo sì. del tuo album. Cosa significa? Un viaggio, Marta, un viaggio e un invito in primis a me stessa e poi al pubblico che mi ascolta, al disarmo interiore, al disarmo emotivo, all'abbandonarsi, al concedersi, un esercizio proprio di libertà, perché quando ti disarmi, quando ti lasci andare senza filtri, ti liberi completamente, ed è lì allora che inizi a vivere nel modo migliore, a tirare fuori proprio la migliore versione di te. Com'è cambiato il tuo modo di comporre, il tuo modo di affrontare il pianoforte e di affrontare il palco, visto che appunto recentemente sei stata al Blue Note, quindi sì. I palchi più ufficiali, più importanti, quelli che ti danno insomma un certo status di importanza? Non percepisco un cambiamento nel tempo, è che cresco. Quindi crescendo, cambiando, evolvendomi, il modo di suonare, il mio pianismo, il mio modo di rapportarmi al pubblico, il confronto con il pubblico, la risposta che ha il pubblico nei miei riguardi ovviamente cambia. Più c'è sicurezza, più c'è determinazione, più sei focalizzato sul tuo progetto, ma per raccontare chi sei, perché poi alla fine appunto una performance live è un disarmo completo verso chi ti ascolta e quindi sei nudo. Io dico che appunto è anche una faccenda di alta acrobazia, un disco e una performance, appunto un'esibizione live, perché sei tu davvero nuda nella tua verità, non puoi raccontare niente con no, un cambiamento all'interno di un brano con un bravissimo arrangiatore, sei proprio tu, libero e totalmente disarmato. Quindi più cresci, più quello che ti esce rappresenta, racconta chi sei. Hai qualche compagna di viaggio questa volta? Sì, sì, ho desiderato fare intrecciare la parola con la musica, un'operazione tutta al femminile, quindi c'è la voce particolarissima della signora del teatro italiano, che è André Ruth Chammà, la signora del teatro Parenti, su testi scritti da Alessandra Sarchi, che è un finalista premio Campiello, quindi tutte donne insieme per invitare appunto a questo disarmo, e la parola che si disarma e si abbandona alla musica, è la musica che si abbandona alla parola. Questo disarmo è solo interiore o riguarda un po' anche il nostro rapporto con il mondo? È un periodo difficile in cui anzi invece siamo sempre con i fucili puntati l'uno sì, contro l'altro. Sì. È principalmente, dicevo, un viaggio interiore, però ad esempio c'è un brano, Valzer in E minor, che vuole raccontare invece proprio questo desiderio di far sì che crolli il muro, si costruisca un ponte, ci sia una mano tesa alla tolleranza affinché appunto anche la persona di fronte a te possa in qualche modo essere accolto in un abbraccio. Il valzer è una danza tra le più popolari, ma è diventata nota non solo per la sua musicalità, ma perché per la prima volta i due danzatori danzavano in coppia abbracciati. Quindi questo valzer è proprio un abbraccio all'altro. Adesso non vorrei essere troppo prosaica, però questo valzer in E minor l'abbiamo sentito molto perché ha accompagna una nota pubblicità. Sì. Sembra una stupidaggine, però quando un brano viene scelto per una pubblicità famosa è comunque un riconoscimento per un artista. Certo, non è una cosa sì. da poco. No, è una cosa importante, perché poi tra l'altro il signor Soro, quindi direttamente da appunto il brand di cui stiamo parlando, della pubblicità, ha scelto personalmente la musica perché voleva che si raccontasse il mare, e questo brano racconta in realtà del mare, delle onde del mare che cullano e nello stesso tempo comunque danno fastidio, perché cioè, sono curiosa, voleva te e ha scelto il brano, ha scelto il tuo brano, bellissimo. È stata una cosa molto bella, proprio perché è riuscito a trovare nel feeling che cercava per questo spot tutto all'interno del mio suono, quindi sì, ha vinto insomma anche un premio sia la pubblicità che la musica, quindi siamo molto soddisfatti e spero che tu insomma possa accogliere con tanto entusiasmo come per loro questo valzer. Roberta, si riparte? Si rifanno dei live? Hai viaggiato molto in questi anni? Sì, ho viaggiato, si può viaggiare anche di più, quindi ci stiamo assolutamente impegnando, arriveranno a breve fuori insomma le date del tour, quindi Disarm girerà senz'altro l'Italia, si farà conoscere per questa sua voglia di far disarmare il pubblico, che a volte appunto poi mi sorprende perché si disarma davvero tanto che scorrono le lacrime, e quindi dico ma vabbè, le lacrime anche no, però invece è un bel segnale di disarmo completo, di abbandono, di concessione, della non azione, lascia andare. Infatti ci sono poche parole in questo disco al di là dei ringraziamenti, ed è questo incipit che è disarmati, lascia che sia, disarm, let it be. Allora io vi lascio alla musica di Roberta Di Mario, andatela a recuperare, andate a sentire qualcosa di Roberta, perché insomma le parole valgono ma la musica parla davvero tanto da sola. Grazie Roberta per essere tornata a trovarci, sono molto contenta. Sempre, molto volentieri, grazie a tutti voi, buona musica e buon ascolto. E questo era un assaggio di Disarm di Roberta Di Mario, amica di Radio 24. Mi piace sempre ospitarla per le sue nuove uscite, anche perché passo dopo passo sta veramente conquistando un suo bellissimo spazio, sta conquistando palcoscenici molto molto molto importanti in Italia ma anche all'estero. Allora, sono le 16.55, quasi le 16.56, diamo la linea al giornale radio delle 17, c'è già pronto Gigi Donelli nello studio dei giornali radio, c'è già pronto anche il nostro co-conduttore d'eccezione per la seconda ora di RadioTube, quella di RadioTube Social Network. Ci ritroviamo dunque tra poco.